Thank you. che vuoi, di tu che vuoi, è l'amore che cerchi tu, di tu che vuoi. Oh, quel nome? Quel nome? Bravo servo, chiede perdono, obbedire non può. Perché gridi? Lasciatela! vecchio è morta. E lì, correndo, le spieremo tutti, l'animo peso, l'animo peso. Si perdi per thank you. Got it! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you.